Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È andata anche la semifinale, ma è andata al di là di ogni più rosea previsione, perché se c'è una cosa bugiarda, una cosa che non torna di ieri sera, è quel punteggio finale così striminzito, è quel 2-1 che con un minimo di freddezza in più sotto porta sarebbe stato almeno un 3-0, che avrebbe davvero fotografato meglio l'andamento della partita. Una comunicazione di servizio innanzitutto, che poi ripeterò anche nel finale di puntata, che è questo: la grande impresa dell'Italia ha costretto diciamo il palinsesto domenicale a una mezza rivoluzione, sicché domenica dalle 17 alle 20:45 prima Claudio Arrigoni e poi chi vi parla in questo momento saremo guai la terza persona, saremo qua ai microfoni per questa lunga vigilia della finale Italia-Spagna. A me personalmente qua a Radio 24, come vi ho anticipato nemmeno troppo velatamente nei giorni scorsi, rimangono tre puntate, quindi questa di oggi, questo extra di domenica che non era previsto ma che è dovuto alla grande impresa italiana, e poi quella finale di lunedì. Allora, dato che lunedì vorrei poi conversare e abbracciare il maggior numero possibile di ascoltatori dopo tutti questi anni, oggi ho scelto tra tutti i grandi interlocutori che in questi quasi 13 anni ci hanno fatto compagnia, ho scelto uno che li rappresentasse al meglio dopo un'impresa come quella dell'Italia di ieri. E quindi do il bentornato ad Adalberto Bortolotti. Buongiorno Adalberto. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao professore, senti, io ho 3-4 domande per te e la prima è questa, perché anch'io ho le mie idee, poi le confrontiamo. Di quanto dobbiamo tornare indietro per rivedere nella nostra memoria un'Italia spettacolosa come quella di ieri sera? Ma io direi a occhi e croce quella del 78. Allora, non ci siamo parlati prima, questo lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando, perché così, così bella, così autorevole e insieme sbarazzina, secondo me. Sì, e poi così nel suo realismo tattico, ma così coraggiosa, così piena di naturalmente piena di iniziative, cioè con un gioco portato a prendere il pallino, ecco, questo mi ha impressionato. Lo avevo intravisto sinora in qualche scorcio, il primo tempo con la Croazia più che altro, sì, ecco, direi, sì. E poi con tutti gli errori o le incertezze di conclusioni, quasi tutta la partita con l'Inghilterra sul piano dell'iniziativa. Sì. Qui in più c'è stata la brillantezza e la percentuale di concretizzazione molto alta, soprattutto considerato quello che ha sprecato Balotelli nell'inizio del torneo e quello che ieri ha trasformato quasi al 100%. Sì. Doveva arrivare la giornata in cui, dopo tanti gol sbagliati, Balotelli, che comunque lì si era sempre fatto trovare, avrebbe centrato il piede, prima la testa per la verità e poi il piede, ammesso che il piede non fosse invece... Guarda, resto col dubbio, lui chiaramente nel momento dell'uscita c'è stato un difetto di comunicazione, perché lui era perfettamente in grado di riprendere il gioco. E con gli spazi dell'ultima parte di gara non si sarebbe fermato a due nel bottino, ecco, adesso con questa idea. Comunque alla fine Prandelli ha avuto ragione praticamente su tutto, poi magari facciamo, per evitare che qualcuno dica di saltare sul carro, poi te ne dico un'altra più avanti. Io dico però che ha avuto ragione su tutto, a cominciare proprio dalla scommessa su Balotelli e Cassano, perché insomma, dopo la flessione di Cassano contro l'Inghilterra, dopo quei gol sbagliati da Balotelli eccetera, è inutile che ci nascondiamo che in tanti, no, ci chiedevamo se non fosse il caso di Natale piuttosto che Giovinco, piuttosto che Diamanti, insomma, comunque di studiare una rotazione anche nel senso della freschezza atletica. Lui ha capito, vedendoli e soprattutto avendoci investito 2 anni fa, che Balotelli e Cassano dovevano essere la coppia vincente in grado di trasformare il gioco di quel centrocampo fantastico che secondo me oggi è superiore a quello della Spagna, e ha avuto ragione Prandelli. Io personalmente faccio ammenda di una considerazione che al momento mi era parsa ragionevole, e che forse ho fatto anche ai tuoi microfoni, cioè che avevo trovato un limite in queste convocazioni, quindi in questo allestimento di squadra, ho trovato un limite nella mancata presenza di un centravanti vero di riferimento che costituisse un'alternativa al gioco che Prandelli aveva in mente. A conti fatti è stata una grandissima trovata, perché direi che sotto questo profilo Prandelli si è tagliato subito i ponti alle spalle, sì. Quindi Cassano e Balotelli non avevano un'alternativa di gioco, al limite una qualche sostituzione momentanea, ma su loro era stata impastata la squadra, su loro avrebbe dovuto andare sino in fondo, e questo alla fine è stato un'arma vincente. Io a un certo momento, quando si era visto il Balotelli piuttosto spaurito, che ci pensava tre ore prima di battere a rete, avessi avuto un'alternativa l'avrei messa dentro. Non avendola avuta, Prandelli gli ha concesso qualche cambio, poi però ha sempre insistito su di lui. È tornato quel gol con l'Irlanda, è tornato il Balotelli vero, insomma. Mi è sembrata quella di vista adesso, ma in parte già vista prima, quello che dici tu, no? La mancata convocazione di un centravanti vero alternativo a Balotelli, mi è sembrato lo stesso atto di fede fatto da Prandelli che Berzot fece in Spagna quando lasciò a casa Pruzzo, il capocannoniere, esatto, è vero? Esatto, e decise che se lo fosse portato alla seconda partita certo. Di Paolo Rossi certo. Avrebbe chiaramente fatto spazio a Pruzzo, invece no, è andato avanti con la sua idea sino in fondo. D'altra parte questo non è stato sicuramente l'europeo dei centravanti fissi, perché all'inizio ci eravamo incantati per questo Gomez così puntuale nella trasformazione, esatto. Ma poi si è visto che nelle due ultime partite è stata la palla, nell'ultima è stato addirittura, in penultima è stato addirittura sostituito, e contro di noi è stata la palla al piede della Germania, perché il centravanti capace solo di chiudere l'azione evidentemente non si confà a questo particolare momento di calcio, ecco. La preparazione, ad Alberto, noi abbiamo visto nelle prime tre partite una costante negativa, e cioè l'Italia che dopo un'ora e un quarto massimo di gioco, non dico si spegneva, comunque calava vistosamente. Non è più successo con l'Inghilterra, tant'è vero che i supplementari ancora li ha dominati l'Italia, non è successo nemmeno ieri, nonostante la fatica fosse abbastanza evidente, ma l'Italia aveva due giorni di riposo in meno rispetto alla Germania. Può voler dire è che una partita diversa alle spalle, perché esatto, 120 minuti esatto, contro esatto. L'Inghilterra, anche come diciamo dispendio nervoso, non potevano essere confrontati alla seduta di allenamento con la Grecia. Ecco. Può voler dire questo che Prandelli fin dall'inizio, e sarebbe un'altra analogia con Berzot, ha puntato su una preparazione diesel, cioè ha scommesso che l'Italia sarebbe andata avanti e avrebbe avuto la condizione migliore quando davvero serviva? Sì, ma può essere veramente. D'altra parte teniamo anche conto che Prandelli ha dovuto fare molto di necessità virtù, perché tempo a disposizione pochissimo. Certo. Stage bocciati dalla politica. Come no. Lega. Ultima amichevole saltata per il terremoto, per cose certo. Più grandi sicuramente di un europeo, certo. Purtroppo diciamo. Quindi la preparazione ha dovuto essere corretta in corsa, però resta in fatto che io poi credo che sulla preparazione a volte noi facciamo molta letteratura, cioè una squadra vive di momenti e ci sono i momenti in cui corre per 120 minuti e altri che, non essendoci con la testa, con la convinzione, sente la fatica molto prima, perché la trasformazione è stata assoluta, cioè io quando ho visto l'Inghilterra riuscire nel suo intento, perché chiaramente non giocando in modo cinico e perverso direi, sì. Era arrivata ai supplementari e ho pensato adesso ci ammassano, perché noi non ne abbiamo più e loro cominciano a giocare adesso, invece in realtà quella squadra si era spenta da sola e ha continuato a essere spenta, mentre l'Italia, che aveva trovato entusiasmo e convinzione, ha continuato su questo direttivo. Proprio così. Credo che molto influisca l'aspetto psicologico, perché in un torneo questo è breve, ma consente dei recuperi tra sì. una partita e l'altra. A volte anche troppi. Io questo lo dicevo parlandone così fra amici che mi facevano appunto il caso dello scandalo per cui la Germania aveva 2 giorni di riposo in più di noi, che a me sembravano un po' troppi i giorni di riposo della Germania. Mi fa pensare ai play-off di basket, dove le squadre che vengono esentate dal primo turno perché migliori stanno 10 giorni senza giocare e alla prima partita soffrono quelle che vengono da un impegno duro magari, ma che sono già rodate. Perché hanno perso il ritmo. Hanno perso il ritmo. Esattamente, sì. Esattamente. Adalberto, un minuto di intervallo, non ti dico i messaggi che arrivano per te, soprattutto per un ascoltatore di ieri di Verona, che ha fatto un certo pronostico, Luis da Treviso, sintetizzo questo soltanto. Vorrei adesso, caro Gigi, che lei chiamasse il veggente di Verona, che ieri ha pronosticato 3-0 per i tedeschi, e anche, già che c'è, quell'altro cretino che voleva Balotelli fuori dalla rosa. Le quote sniper domenica sera. Allora, l'Italia, parliamo del 90esimo, la Spagna è quotata 2, la vittoria della Spagna entro il 90esimo è quotata 2,25, l'Italia è quotata a 3. Io quasi quasi, caro Adalberto, un pensierino ce lo sto facendo per questa ragione, e tu mi correggi se sbaglio, che a parità di centrocampo, anzi io farei a parità di signore difese, a parità di centrocampo, dirlo con gli spagnoli di mezzo sembra una bestemmia, ma in questo momento secondo me non lo è affatto, anzi l'Italia ha anche l'attacco. Sì. No, ma è verissimo. Cioè, questa Spagna deve avere tutto il rispetto dovuto a una squadra che riesce a arrivare comunque in fondo a una competizione pur rimanendo lontanissima dal suo miglior calcio, perché sì. questa è una caratteristica delle grandi squadre. È verissimo. Che tutti nel momento migliori sono capaci di fare grande calcio, grandi risultati, ma quando il momento passa c'è una caduta. E invece la Spagna è rimasta in piedi, grazie soprattutto al rendimento difensivo, perché tuttora mi pare che solo Di Natale abbia violato nei minuti di gioco Casillas. Quindi tutto il rispetto, però a me adesso l'Italia sembra squadra più completa per quello che dicevi tu, e anche per una condizione nei suoi elementi cardine che mi sembra più brillante. Voglio dire, io nella Spagna ho visto sin qui un Xavi sì. quasi irriconoscibile, onestamente. Certo. Non so se è dovuto alla mancanza di un terminale, perché vorrei anche vedere il Barcellona senza Messi e senza un sostituto di Messi. Sì. Poi dopo potremo fare 2 conti diversi da quelli che siamo stati abituati a fare in questi anni. Però Xavi mi sembra proprio un altro giocatore. Lo stesso Del Bosque, combattuto fra un centravanti atipico come Fabregas, che poi centravanti è una parola grossa, e un centravanti tradizionale, ha continuato a ruotare comunque gli uomini. Secondo me, trascurando molto Pedro, che mi sembra uno dei più vivaci nei pochi momenti in cui è entrato. E temo ce lo ritroveremo. Temo io che ce lo ritroveremo, però io pensavo di ritrovarmelo anche contro il Portogallo. E invece, è vero. Altre soluzioni un po' discutibili. Con tutto questo abbiamo anche il conforto di una prima partita in cui a lungo siamo stati all'altezza della Spagna, nonostante avessimo uno schieramento di fortuna, di emergenza, con De Rossi, eccellente centrale difensivo, ma amaramente rimpianto a centrocampo, chiaramente. Ecco. Quindi è chiaro che ce la giochiamo. Come io ero convinto che la saremmo giocata anche con la Germania, non tanto per tradizione, ma perché questa Germania è così bella. Mi sembra, sembra un controsenso dirlo a proposito di tedeschi, fragile moralmente, ecco, cioè, mi sembra una squadra che difficilmente rimonta, ecco. Se va in gol, se trova tutto facile, si esalta. Per questo io rimango sempre col dubbio di cosa sarebbe successo in Sudafrica se all'Inghilterra avessero dato quel gol che era entrato di un metro, perché avrebbe costretto la Germania a ricominciare a giocare anziché a trovarsi sul velluto. Certo. Adalberto, l'ultima domanda riguarda i cambi, e cioè che Prandelli abbia fatto un lavoro strepitoso sul gruppo, sulla scelta dei giocatori, sulla motivazione, sull'aggregazione e direi anche sulle scelte tattiche di partenza in ogni partita, mi pare che di dubbi ce ne siano molto pochi. Io continuo a cercare il pelo nell'uovo e ad avere qualche perplessità sui cambi, perché ieri sera, secondo me, è vero che hai due gol di vantaggio, ma il non dico Cassano, che magari era davvero, ma quel cambio Montolivo-Motta con Chiellini che ha il calzettone abbassato, De Rossi che continua ad avere il problema al nervo sciatico, un accidente che può sempre capitare, boh, insomma, io forse lì qualcosina avrei ancora aspettato, fermo restando che poi anche Balotelli era vivo e non morto come pareva in un primo tempo, e quindi anche di Natale si poteva aspettare. Come la vedi tu? Ma io, sai, il Piago Motta mi è sembrato, diciamo, il meno convincente di una squadra che si è espressa al di sopra delle aspettative, quindi io personalmente lo metterei molto raramente in campo, sì. Però così è un dubbio. E Montolivo mi sembrava non ancora allo stremo, e aveva giocato un primo tempo, non essendo io un estimatore di quel giocatore in modo particolare, a me aveva addirittura sbalordito, perché aveva giocato un primo tempo grandioso, sia per quantità e sia per qualità, un tiro non facilissimo da parare, su cui Neuer aveva dovuto distendersi, l'assist a Balotelli del secondo gol e una presenza nelle proiezioni offensive fantastica. Secondo me aveva ancora da spendere, vedendo nella faccia non proprio convinta, esatto, al momento di uscire, forse, esatto, anche lui era convinto di avere ancora qualcosa da spendere. La prova del nuovo, infatti. Parliamo appunto di pelo nell'uovo a fronte di grandi meriti, certo, perché Prandelli ha anche saputo cambiare delle gerarchie in corso d'opera. Ad esempio Diamanti è diventato la prima punta di ricambio, scavalcando Giovinco e lo stesso Di Natale. Certo. Comunque il cambio di Cassano, non il cambio come si pensava del trequartista, vero. Eventualmente iniziasse. Così come Zaccherini, che aveva fatto due partite encomiabili per quello che doveva dare, a un certo punto è stato giustamente sostituito da giocatori di ruolo, ecco, uh-huh, quando gli impegni si facevano più pesanti. Quindi mi pare che ormai sia definito che siano quasi cambi fissi, cioè Nocerino per De Rossi, quando sì, De Rossi proprio ha la lingua fuori o qualche, sì, guaio fisico, Diamanti per Cassano, e poi questo Montolivo Tiago Motta, si spera che Montolivo tenga a botta un quarto d'ora in più quest'altra volta, che poi è l'ultima. Adalberto, l'abbraccio conclusivo oggi è un po' più forte del solito. L'abbraccio conclusivo, mi devi permettere di esprimere due concetti velocissimi. Sì. Uno, questa trasmissione è stata per me la migliore trasmissione sportiva radio-televisiva, cioè quella che era più vicina al mio modo di concepire il giornalismo. Secondo, questa trasmissione per me, e credo per la stragrande maggioranza dei suoi ascoltatori, ha e continuerà ad avere un nome e un cognome, Gigi Garanzini. Adalberto, dai, ti ringrazio, ti abbraccio più forte ancora di quello che pensavo prima. Ciao. Chiudo questo collegamento con Bologna, addirittura con un po' di magoncino. Orazio scrive da Reggio Emilia: ma mi scusi, lei davvero non sarà più in trasmissione il prossimo anno? Mi risponda per favore, quasi ultimativo. Le rispondo che no, la direzione ha deciso diversamente, e quindi cosa vuole che faccia? Che mi incateni al microfono. Sentiamoci domenica piuttosto. Vi ricordo che domenica c'è in onda uno speciale dalle 17 alle 20.45 per vivere insieme, no? Per farci compagnia. Molti di voi staranno rientrando in auto da un fine settimana o da una ricerca di refrigerio in queste giornate torride. Facciamoci compagnia radiofonica nell'avvicinarsi dell'orario della partita. E quindi, ripeto, prima con Claudio Arrigoni e poi quando riesco a raggiungerlo, diciamo intorno alle 18:30, poi faremo questa staffetta che andrà avanti fino al fischio iniziale dell'arbitro, che tra l'altro si chiama Proenza, che è lo stesso che ha diretto Italia-Inghilterra e che è stato designato stamattina per dirigere la finale. Adesso facciamo uno o due ascoltatori campione e poi nella seconda parte del nostro appuntamento di oggi la vostra beneficiata di interventi, ma ripeto, chi non interviene oggi ha tempo poi domenica pomeriggio e ovviamente lunedì, anche perché ho ricevuto tante di quelle mail e di quei messaggi che, insomma, una sintesi almeno dei più significativi mi piacerebbe darla. Gennaro da Belluno, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Niente, volevo fare complimenti a Prandelli che, convinto delle sue idee, ci sta portando veramente in alto, ovvero la finale. Poi volevo chiedere una considerazione su Buffon, se è una cosa studiata o se è una cosa ce l'ha con i giornalisti, con la squadra. E l'ultimo consiglio che le chiedo, poi l'ascolto per radio, cosa mi consiglia di ascoltare dopo che lei se ne va da 24, beh, dalle 2 alle 3? Gennaro, questa, dall'ultima domanda mi esenti per cortesia. L'argomento Buffon me l'aspettavo sin dal primo intervento. Buffon no, non ce l'aveva con i giornalisti, ce l'aveva per una volta, ce l'aveva con Marchisio in particolare, e lo si è anche visto, poi è anche stato chiarito, per quelle due occasioni fallite, c'era un po' con i difensori e i centrocampisti che secondo lui avevano allentato l'attenzione negli ultimi minuti, dimenticando che la squadra poteva tranquillamente avercela con lui per le due gaffe nei primi 12 minuti, una al quinto e una al dodicesimo, che per un puro miracolo non sono costate carissime all'Italia, perché se su una di quelle due vaccate del portiere va in vantaggio la Germania, io credo che la Germania sarebbe stata un'altra e purtroppo sarebbe stata un'altra anche l'Italia, e quindi mi è sembrato, certo i nervi non li controlli quando, però mi è sembrato molto ingeneroso in ogni caso questa ennesima uscita strampalata fuori dal campo, non parliamo di campo, anche se ieri sera ne ha sbagliate due anche lì di Buffon. Le curiosità di Franco Piantanide, curiosità statistiche. Allora, ogni 8 anni la finale è anche la partita d'esordio di uno dei gironi. Urso Olanda 88, Germania Repubblica Ceca 96, Portogallo Grecia 2004, Italia Spagna 2012. Dopodiché 94, 2000, 2006, 2012, ogni sei anni l'Italia va in finale, che sono cabalette non da ridere. Quando l'Italia è in semifinale, 9 volte su 11 tra mondiali e europei è andata in finale. Dice, ma la storia non conta, in realtà il passato non conta. Ah no? Allora, Italia mai sconfitta dalla Spagna in competizioni ufficiali, regola confermata dalla prima giornata e speriamo anche dall'ultima. Italia incapace di battere la Croazia e 1-1 la seconda giornata, tradizione favorevole con l'Inghilterra mantenuta, perché non ci battono in competizioni ufficiali dal 97, imbattibilità salva con i tedeschi in competizioni ufficiali, 4 vittorie e 4 pareggi. Balotelli è il secondo giocatore italiano a segnare una doppietta in un europeo dopo Casiraghi, che segnò 2 gol alla Russia nel 96 nella partita inaugurale. Proenza, l'ho già detto, è arbitro della finale e ha già diretto la finale di Champions League Bayern-Chelsea. Capitò la stessa cosa nel 2010 quando Webb arbitrò la finale di Champions e anche i mondiali. Ancora un attimo di pazienza per chi è già in linea per intervenire. Ascolti pazzeschi ieri sera su Rai. Sommando gli ascoltatori di Rai 1, di Rai Sport 1 e di Rai HD, si è arrivati a 23.255.000 spettatori con uno share del 79,55, l'80% di share. Proenza, ve l'ho detto. Del Bosche, molto bella, non ci pentiremo mai di non aver pareggiato contro la Croazia per eliminare l'Italia, sarebbe stato un male per lo sport, senza stare a farla tanto lunga, il signor, ma con la S maiuscola, Del Bosche. Nuovo pellegrinaggio azzurro stanotte dopo la vittoria sulla Germania. Prandelli e il suo staff a ritorno alla Varsavia. Sono arrivati in albergo, si sono cambiati come era già successo le altre volte, a piedi sono andati alla parrocchia della Sacra Famiglia nella diocesi di Cracovia, camminata veloce, andata e ritorno circa di 10 km e sono rincasati alle 5 del mattino. Dopodiché ci sono le rassegne stampa di Spagna, Germania e anche Inghilterra, che se c'è tempo vedremo. Ultimo dato, e anche questo è griffato Franco Piantanida, e mi sembra interessantissimo, l'abbiamo menata io stesso per giorni sul vantaggio che la Germania aveva di questi due giorni di riposo. Bene, col risultato di ieri sera, dal 1982 a oggi si sono giocate 44 partite a eliminazione diretta tra europei e mondiali, in cui c'era c'era differenza di trattamento di giorni di riposo tra le due squadre. 24 volte con ieri sera su 44 ha vinto la squadra con meno giorni di riposo. Quindi più di così credo che per demolire questa teoria, più di così non si possa fare. Balotelli, cos'è questa? Ah sì, carina. Balotelli, 29 giugno 2010 ha preso la maturità scolastica in ragioneria, 29 giugno 2012 forse ha preso anche la maturità calcistica. Questa è carina e curiosa. Marco ha chiamato dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Senta, a me entusiasma il fatto che ovviamente prendere da cima dell'iceberg di questa evoluzione del calcio italiano negli ultimi anni. Ci sta provando Conte, ci sta provando tanti giovani allenatori, e io quasi 37-38 anni ho mai visto giocare bene la nazionale italiana come a questo europeo. Io sono un gentiano, nel senso che ero entusiasta delle scelte che aveva fatto e della squadra. L'ultima cosa è che secondo me in questo momento il centrocampo e il blocco dei due centrali difensivi dell'Italia non è inferiore a nessuno, neanche alla Spagna. Siamo forse, pecchiamo un po' a differenza loro sugli esterni, perché loro hanno Jordi Alba, Pedro, gente che corre ed è molto dinamica. Dobbiamo migliorare ancora lì, ma a quel punto raggiungeremo veramente quasi la perfezione. La saluto e l'ascolto per radio. Condivido Marco, grazie. No, io se cercherei di ridurre per farvi intervenire nel maggior numero possibile, anche se, vi ripeto, avrete tempo, spazio e modo di intervenire nel tardo pomeriggio di domenica e poi nella giornata conclusiva degli europei, insomma, e della mia avventura, vi ho già detto, di lunedì. Nunzio, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto ho telefonato soprattutto per salutarla e mi dispiace molto che lei vada via. Vabbè, a parte questo, però volevo fare una riflessione. Ho sentito un'intervista stamattina di Luisito Suarez, che di partite importanti le ha giocate, e secondo lui ha detto che il discorso del biscotto invece influirà molto alla Spagna, perché in quel periodo la Spagna si sentiva molto forte e l'Italia era un po' più debole, mentre adesso forse si pentirà vedendo in che forma è l'Italia. Quindi ha detto che queste partite qua si giocano molto sulla testa e quindi secondo lui ne risentirà un po' la Spagna. Niente, volevo sapere la sua idea, insomma. La saluto, salve, grazie. Buongiorno Nunzio. Non, insomma, la mia idea non c'è, la mia idea è che la Spagna non ci ha nemmeno pensato a fare quel biscotto. La cosa adesso mi auguro che lei si ritorca contro, ma mi auguro non in senso sportivo, in senso etico evidentemente, ma mi auguro perché per quello che abbiamo visto fin qui, questo europeo merita, l'Italia merita di vincerlo più della Spagna, non soltanto per la partita di ieri contro la Germania, ma esaminando tutto il grafico. La Spagna non ha giocato un europeo buono, più che buono, ma non ha giocato un europeo brillante come quello italiano. Poi è chiaro che la vera grande brillantezza è arrivata ieri sera, ma insomma la Spagna, una partita come quella giocata dall'Italia ieri sera, in questo europeo proprio non l'ha fatta. E nel primo confronto diretto la Spagna, se meritava qualcosa di più, e forse sì, l'ha meritato nel finale, quando ancora l'Italia aveva quel tipo di preparazione che come dire la portava a un calo nel finale di partita. Adesso un attimo di pazienza a Nunzio, Alessandro e Paolo. Volevo sintetizzare alcune dello sterminio di mail che c'è qua. Scrive Luca Benini da Cuneo: la partita che ci aspetta domenica sarà molto dura, non illudiamoci che la buona prestazione contro la Germania possa lasciar pensare a un'Italia pari alla Spagna. La Germania ha perso tanti palloni, certamente anche per merito dell'Italia, cosa che sicuramente la Spagna non farà. Purtroppo mi aspetto una partita noiosa come solo la Spagna può fare, esasperata in innumerevoli passaggi brevi. È una buona diagnosi preventiva, è di quello che ci aspetta. Non è detto che, al di là del risultato e al di là di come andrà, non è detto che sia che domenica sia una bella partita come è stata quella di ieri. Vittorio da Molare, provincia d'Alessandria, scrive: solo il leggendario Zoff può fregiarsi di un mondiale e di un europeo, ma se domenica l'Italia dovesse vincere saranno ben 4 i giocatori a compiere a realizzare questa doppietta: Pirlo, Buffon, De Rossi e Barzagli. Scrivo dal Brasile, scrive Diego Preite: finalmente posso essere orgoglioso del gioco dell'Italia. I brasiliani pensano che solo la loro Seleção giochi bene a pallone. Beh, stavolta si saranno ricreduti. Umberto da Lama Mocogno scrive: è impressionante come provincia di Modena, come i luoghi comuni in questo europeo si siano realizzati in pieno dalla convinzione che solo nelle difficoltà e negli scandali gli azzurri diano il meglio di sé, sia nel confermare le bestie nere avversarie, cioè noi di essere la bestia nera per certi avversari, e infine gioire e osannare i Balotelli di turno come rappresentante di questa inarrestabile Italia, dimenticando di colpo che per metà di questi presunti soloni del calcio fino a ieri era buono sì e no per calcare il suolo del billionaire piuttosto che un campo di calcio. Ma questi sono gli italiani e io sono il primo a essere fiero di esserlo. Umberto da Lama Mocogno, ripeto. Non vorrei autoincensarmi, scrive Alessandro Tinti da Castel Fiorentino, anche se in realtà lo sto già facendo, ma io sono quello che l'ha chiamata ieri definendosi uno di 3 o 4 italiani ai quali Balotelli era piaciuto molto anche contro l'Inghilterra, e confermo questa mia opinione. Alessandro da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. 2 considerazioni velocissime. Sottolineerei la mancanza di casualità nella vittoria dell'Italia in questo europeo, prima di tutto, rispetto a passati tempi, vorrei dire anche mondiale di Lippi. Secondo me abbiamo dimostrato in tutte le partite di volerle vincerle e di vincerle con merito senza pensare al caso. Seconda cosa, io farei complimenti, se non ricordo male, è il figlio di Prandelli a pensare alla preparazione atletica della squadra. E secondo me, oltre che Prandelli padre, un complimento va a Prandelli figlio, perché non c'è stato nelle ultime partite un calo atletico che è stato rilevante in questo senso. Sì, sì, il figlio di Prandelli non è il responsabile primo della preparazione atletica, è un collaboratore e comunque certamente la sua mano c'è, non c'è dubbio. Così come c'era ed era stata rilevata anche da parte mia, forse in negativo, in quelle prime partite in cui l'Italia calava, è giusto invece adesso riconoscerla al contrario, cioè in senso positivo. Paolo Bergamo, buongiorno. Garantini, buongiorno. Dica. E complimenti per la sua trasmissione. Vabbè. Un paio di domande volevo fare. Io volevo fare i complimenti più che ai calciatori al mister Prandelli, anche perché mi sa che all'inizio di questo evento molti lo accreditavano come un allenatore in grado di poter portare l'Italia fino in finale, come invece è stato. Primo. Secondo, mi sembra che il clima prima della partenza non era al massimo della vita. Volevo chiederle, secondo lei, quali potevano essere le cause, i meriti, perché alla fine, che hanno potuto permettere a questa nazionale di arrivare in finale, primo. Secondo, se Prandelli, oltre a essere un allenatore, abbia fatto un po' da papà a questi calciatori. E purtroppo una cosa che è giusto non dimenticarsi: se c'è il rischio che con la vittoria dell'Italia, che tutti speriamo, di questa finale, venga messo un bel coperchio sopra lo scandalo scommesse che fino adesso sinceramente ha colpito solo squadre o calciatori. Certo, certo. Mi auguro, rispondo all'ultima, mi auguro di no, ma temo tanto di sì. Sembra ieri. 29 giugno 2000. A distanza di 32 anni dall'ultima volta, l'Italia è in finale agli europei. La squadra di Zoff riesce nell'impresa di eliminare una brillante Olanda ad Amsterdam. È una partita in cui succede di tutto. Gli Orange, la cui supremazia territoriale è netta per un'ampia fase del match, sbagliano 2 tiri dagli 11 metri. Poi, col passare dei minuti, l'Italia prende coraggio e nei supplementari arriva addirittura vicina al gol vittoria con Del Vecchio. Ai rigori, Toldo prosegue la sua giornata di grazia, parando le conclusioni di Frank de Boer e Bosvelt, mentre Totti ha la sfrontatezza di beffare Van der Sar con un cucchiaio alla panenka. Scrive Stefano Bernardi da Parma. Io lo sapevo, se c'era uno in grado di far fare il salto di qualità a Balotelli era Prandelli. A Parma ricordiamo bene come fosse riuscito a far rigare dritto due teste calde come Mutu e Adriano contemporaneamente. Perciò me l'aspettavo. In effetti questa è una bella referenza, perché anche due capocce come quelle insieme, tra l'altro, farle rigare dritto, insomma, o abbastanza dritto, è stata certamente un'impresa. Lausing, leggo bene, Legnano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garantini. Dica. Complimenti per la trasmissione. Yeah. Io credo che la chiave del successo dell'Italia è Prandelli. Penso che mi ha anticipato l'ultimo ascoltatore, e vorrei fare complimenti a questa Italia che è stata splendida in tutti i campi. E la domanda è: Montolivo a centrocampo può essere l'erede di Pirlo, secondo lei? Montolivo l'erede di Pirlo? No, mi pare che abbiano caratteristiche diverse, ma insomma io... si possono raccogliere le eredità, ma questo vale per tutti, poi interpretando quelle eredità secondo le proprie caratteristiche. Montolivo ha discrete attitudini alla regia, ma non ha quelle di Pirlo. Non vi dico i messaggi personali che sono arrivati, che stanno arrivando, che io faccio finta di non vedere, perché sennò finisce male da qua a lunedì. E però ce n'è uno che mi sta stentando per una lettura, perché è veramente carino, molto lusinghiero, ma di quelli carini e spiritosi. Invece sentirei Euro da Bologna. Euro. Sì, Euro è corretto. Sì, è corretto. Sì. Chiamavo qualche anno fa, adesso è passato tanto tempo, comunque niente. Innanzitutto volevo abbracciarla, perché comunque 13 anni insieme è come una piccola fetta di amicizia, insomma, anche se non ci conosciamo personalmente. E poi niente, volevo invece sulla partita di ieri, volevo porre l'accento su una cosa che mi sembra che non molti abbiano notato. Insomma, ho trovato che Chiellini in quella posizione, che poi non teneva, cioè lasciava sempre un grande buco dove scendeva Boateng, lui si accentrava tanto e costringeva De Rossi a un super lavoro di copertura, eccetera, per tutta la partita. Insomma, l'ho trovato da un punto di vista tattico, insomma, poco sensato, ecco, questo impiego di Chiellini a tutti i costi con quel tipo di rendimento così arruffato. Un abbraccio ancora. Grazie all'Euro, però tenga conto che insomma da quella parte la Germania spingeva, per come riusciva a spingere ieri, e tenga anche conto che i tedeschi prima con Gomez e poi con Klose, e gli inserimenti centrali di Khedira e di altri comportavano anche il fatto che i difensori ogni tanto stringessero gli esterni. Se ricordo, nel primo tempo c'è stato un grande salvataggio di Balzaretti, per esempio, al limite dell'area piccola, in spaccata, in chiusura. Non è il posto di Balzaretti quello, però si fa di necessità virtù quando gli altri ti attaccano, ed è ovvio che i due centrocampisti esterni, più esterni, e cioè De Rossi a sinistra e Marchisio a destra, vadano a coprire, a raddoppiare su quelle fasce. Lo hanno fatto splendidamente per l'intera serata, e non mi sembra che nemmeno a destra contro Chiellini abbiano poi fatto sfracello questi tedeschi di ieri. Poi se lui magari giocava fin dall'inizio con Royce anziché con snaturando la squadra con Kroos e con la nonna di Schweinsteiger, questi sono problemi loro, evidentemente. Michele Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Sì. Innanzitutto mi perdoni, glielo devo dire, ma se ci abbandona dopo le toccherà fare una trasmissione sulla depressione fra i radioascoltatori. Però fra quelli, e questo per dirle da quanto tempo l'ascolto. Però le volevo chiedere questa cosa. Sì. Io un po' sono molto felice, però ho paura un po' che con la Spagna sarà difficile replicare la partita che abbiamo fatto con Germania e con Inghilterra, perché la Spagna addormenta il gioco e lo prende in mano lei, e quindi mi chiedo come faremo noi, ecco, a trovare delle misure per farle del male, perché non è facile. Faremo sapendo in partenza che è più difficile, però avendo un eccellente che è più difficile rispetto ai centrocampi di Germania e Inghilterra, però avendo un eccellente riferimento, che è la partita inaugurale. in cui l'Italia, soprattutto nel primo tempo, ha sofferto, non dico nulla, ma ha sofferto poco il palleggio tedesco, il palleggio spagnolo. Qual è stato il problema di quella partita? Che, ma di tutti gli avversari della Spagna in questo mondiale, in questo europeo, Portogallo compreso, il problema è stato che quel gioco spagnolo ti irretisce ti sfianca un tantino, nel senso che per stargli dietro, per corrergli dietro, eccetera, ti stanchi, perdi un po' alla volta, perdi lucidità. E però l'Italia, nonostante questo, era riuscita a colpirli per prima, no? Bisognerebbe riuscire a fare la stessa cosa senza però incassare subito il pareggio tre minuti dopo, come è accaduto in quella partita inaugurale. Dai, che è solo venerdì, è presto per fasciarsi la testa. Milano, Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Dica. Eccoci qua. Senta, io ho aspettato tutti questi anni per chiamarla, perché sono un po' timido. E allora lei, che è un professionista, mi sono sempre un po' bloccato. Invece ho voluto chiamarla oggi perché io faccio il tassista. Io in quest'oretta che ogni giorno passavo con lei ho sempre avuto, come dire, quest'oretta d'aria, ecco. Quindi volevo ringraziarla e di tutta la compagnia che mi ha fatto e augurarla di sentirla presto. Francesco, sono io evidentemente che ringrazio lei e lei e le dirò presenti questi ringraziamenti, i sensi dei miei ringraziamenti anche a tanti, ma tanti suoi colleghi presso i quali evidentemente questi anni hanno dato una certa popolarità, no? E proprio per la compagnia che c'è stata. Radio 24 con lei sta facendo quello che il Milan ha fatto con Pirlo, scrive Lorenzo da Mestre. Non è malissimo questa, no? Molto immodestamente, me ne vergogno un po', però è perché la battuta secondo me è carina. Non ci sono più ascoltatori collegati, l'orario, oggi ho perso un po' il filo, vuol dire che manca ancora un minuto e mezzo. Allora io sentirei però almeno un paio di voci di ieri sera. Una è quella bellissima dedica di Balotelli alla sua mamma. Di sicuro a fine partita, quando sono andato da mia mamma, no, io gli ho detto: questi gol sono per te in assoluto, soprattutto perché mia mamma ha una certa età ed è venuta fino a qua e l'unica cosa che speravo era farla contenta in qualche modo. E in finale viene anche mio papà, quindi spero di farne 4, non 2. Anche nelle partite precedenti mi sono arrivate tante occasioni e purtroppo non sono riuscito a fare gol, però è così il calcio. A volte hai tante occasioni e non riesci a fare gol, altre volte ne hai poche e ti va dentro, è questione di anche un po' di fortuna. Questa sera è stata la serata più bella della mia vita fino adesso, però spero che sia ancora più bello domenica. Beh, direi che non ha parlato male Balotelli, oltre ad aver giocato come ha giocato ieri sera e aver incantato finalmente l'Europa, ma direi anche il mondo. Direi sì, per oggi mi pare, guardando l'orologio, che siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo questo speciale domenicale tardo pomeridiano, che comunque dalle 5 in avanti, prima con Claudio Rigoni e poi con me ci sarà Sport, sino alle 20.45, l'appuntamento di lunedì. E per il momento grazie a Matteo Comes in regia, a Franco Piattanini in redazione e a chi mi ha alluvionato di messaggi da parte vostra. Grazie, buon pomeriggio.